Roma Trastevere, 31 ottobre 1973. Care Leuterio, la casa che ascoltò i miei dialoghi con la bambola e le mie confidenze di giovane sposa a mammina, oggi ascolta i miei sfoghi di moglie alla mia sorellina maggiore. La nostra ultima lite mi ha sciocchizzata quasi quanto l'abito indossato da Orietta Berti se ne fa in televisione. Guardo i vicoli di Trastevere e io penso che i vicoli sono sentieri di campagna venuti in città con la presunzione di diventare strade. E penso anche che sei un cretino, Leuterio. Le riforme sono necessarie e vanno attuate, sempre tua. Roma Parioli, 1 novembre 1973. Ineluttabile sempre mia. La casa che ascoltò i tuoi dialoghi con la bambola e oggi i tuoi sfoghi con la sorellina maggiore sta molto, molto peggio di me. Ti ascolta. Spero tu stia bene con tua sorella. L'antiquariato spinto ti ha sempre affascinato. A proposito, sei riuscita a decifrare i geroglifici che Ramsete II le fece dipingere sull'involucro che la tiene unita? D'accordo. Le riforme vanno attuate, ma incomincia allora con quella burocratica del tuo cervello che assimila con esasperante lentezza qualsiasi concetto. Eleuterio. Ho scritto. Per ragioni di viabilità, un automobilista mi ha gridato incosciente, pazzo, irresponsabile. Deve avere scoperto che da anni sei mia moglie. Roma Trastevere, 2 novembre 1973. Care Leuterio, miciastro, astro non in senso cosmico, ma dispregiativo. La mia sorellina ha letto la faccenda dei geroglifici e dopo aver pronunciato frasi che io non scrivo per non rubare il mestiere a Moravia, ha fissato con odio la testa di cervo imbalsamata appesa al muro e gli ha detto: buongiorno Eleuterio. Poi mi ha spiegato che se tu dalla testa in su sei fatto come lui, io non c'entro, è una faccenda di retaggio. Sotto casa c'è un venditore di olive e io penso che l'oliva è la più grossa bugia dell'olio vergine. La riforma che ho attuato mi riguarda e come la rubrica del telefono è un bene comune, sempre tua. Roma Parioli, 3 novembre 1973. Incontrollabile sempre mia. Già sento la tua mancanza. Litigo col portinaio, tratto male la vicina di casa, polemizzo con l'amministratore. Insomma, quando tu non ci sei, io, non avendo niente da farmi perdonare dai condomini, ne approfitto. Quando sei qui, invece, ricordo il grande errore commesso e ritrovo l'umiltà nei confronti di chiunque umanamente sbaglia. Torna. Qualcuno deve avere sostituito i pesci rossi nell'acquario. Sono Rosa Pallido e Eleuterio. Ho scritto. Dice la portinaia che i pesci sono sempre gli stessi. È solo questione di mangime. La scatola del mangime è uguale a quella dello sbiancatutto. E io... Roma Parioli, 4 novembre 1973. Care Eleuterio, migione, sono di nuovo con te che non sei qui in casa e non puoi essere con me, ma ci sarai tra poco e quindi è come se ci fossimo tutte e due. Ho ritrovato i cuscini sotto il letto e li ho rimessi sopra e io penso che i cuscini sono cacciatori inesperti, si vedono volare intorno centinaia di sogni e non riescono mai a catturarne uno. Penso anche al futile motivo per cui abbiamo litigato. Tu eri nel tuo studio e io no, perché ero di là. Ma si può sapere dove diavolo hai messo la mia rubrica del telefono? Intanto la rubrica è di tutti e due, quindi è più mia che tua. E poi è sulla scrivania, come sempre. Non c'è. C'è, solo che se cerchi quella rossa non la troverai mai, perché non è più rossa, è gialla. È sempre stata rossa, io voglio quella rossa. È stata, io sono per le riforme e la rubrica andava ristrutturata. Adesso è gialla, eccola. Devi cercare un numero di telefono? No. E quando mai uno che chiede la rubrica telefonica deve cercare un numero di telefono? Oh, mi devo documentare sulla formazione della nazionale italiana che incontrò il Real Madrid. Le notizie sportive non si cercano sulla rubrica del telefono, Eleuterio. Certe volte mi stupisci. E tu mi stupisci sempre. Devo cercare il numero del meccanico. Allora cercalo, è segnato alla lettera C. Alla lettera C? E perché alla lettera C? Perché mi sembra logico. È il cugino del garagista, no? E tu, cugino, dove lo scrivi? Alla lettera V? No, io alla lettera V ci scriverei volentieri vedovo e col mio numero di telefono. E siccome non voglio scrivere bugie, dovresti collaborare. Io non collaboro, ti piacerebbe? Perché si vede? Sì, per un numero di telefono saresti pronto a uccidere una donna. Ma chi ha parlato di donne? Io sto parlando di te. Guarda che mi hai combinato, meccanico. Stava tanto bene alla lettera M. No, alla lettera M c'è il numero di mia sorella. Ma per non creare confusioni nel caso che la dovessi chiamare tu, ho scritto anche mia cognata. Ma potevi semplificare tutto scrivendo mummia una volta sola. Eleuterio, non offendere. Hai ragione, chiedo scusa alle mummie. Io rivoglio la rubrica mia. Niente affatto, bisogna aggiornarsi. Anche i libri di scuola sono fatti in un altro modo, più facilmente assimilabili. Io non devo assimilare, io devo aprire la rubrica alla lettera I e trovare il numero dell'idraulico. Il numero dell'idraulico lo troverai alla lettera Q, quello che aggiusta il rubinetto. Senti, o mi ridai la vecchia rubrica o io cerco la lettera E, edificio dove abitano i carabinieri. Ti strozzo e telefono per costituire. Eleuterio, è chiaro? Cosa, ecco, il cuore della testa? Io me ne torno da mia sorella, anzi, guarda, ci torno subito. Ricordo perfettamente perché litigammo, ma quando rientrerai, dato che sei fuori, farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Pensavo di rimettere un po' in ordine le tue carte, riformando un po' il sistema.